Bentornati al podcast Fitness Discovery. Oggi siamo al 23° episodio, chi vi parla è Lorenzo Vieri e sto registrando una piccola introduzione postuma ad un episodio che abbiamo registrato nei giorni passati. E registrazione postuma perché siamo stati ad Udine nei giorni scorsi a incontrare Luca Zilli. Luca Zilli, che è ormai un nome ben noto nel settore bodybuilding e alimentazione, è un personal trainer di Udine che si distingue, perlomeno per quanto l'ho conosciuto io in questi giorni e per come lo conosco dal web, si distingue per la sua grande capacità critica e lavorativa di tutta una serie di processi legati all'allenamento, e ne è nata subito come una detonazione, potremmo dire, una discussione molto molto interessante che abbiamo deciso almeno in parte di registrare come podcast. L'ora che seguirà è proprio un estratto di questa conversazione che abbiamo avuto con Luca. Per quanto mi riguarda, sono molto molto contento di averlo conosciuto e sono sicuro che è una persona che può contribuire molto a arricchire come valore tutto il settore. E sicuramente dalla discussione che abbiamo avuto, che sentirete in podcast e che abbiamo avuto nei giorni scorsi, ne trarrete beneficio sicuramente anche voi. Parleremo a ruota libera, ed è davvero una discussione a ruota libera, di allenamento ad alta intensità, di alto volume, di endocrinologia applicata all'esercizio, di bioequazioni, queste formule ricavate da Luca, elaborate negli ultimi 12-15 anni, che consentono di stabilire la produttività di un certo allenamento, e di cui parlerà estensivamente nella seconda parte del podcast. Quindi credo proprio che la discussione, è proprio come un vero e proprio dibattito, sia qualcosa di davvero arricchente e che può portare sicuramente a delle riflessioni che magari prima non avevate ancora fatto. Il podcast inizia con la conversazione che è già cominciata e con la risposta di Luca Zilli alla domanda se l'intensità fosse in contrasto con il suo metodo funzionale e le osservazioni che aveva fatto Luca negli ultimi anni sul concetto di intensità e sulla sua applicazione alle metodologie di allenamento che porta avanti con i suoi clienti. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e ci vediamo al prossimo episodio. Ma il contrasto in questi casi qua, secondo me, non si può definire tale. Secondo me possiamo definire una forma di complementarietà. Cioè, io sono tanti anni che studio appunto l'intensità da ogni punto di vista. Abbiamo iniziato quella volta, bene o male, a parlarne insieme. Io, bene o male, vivevo già da un metodo che poteva definirsi a, se vogliamo, semi-intensità. Perché in effetti ho sempre ragionato come valore sulle serie a sedimento, fondamentalmente. Questo fino al 2007-2008 ragionavo unicamente in quella direzione. Quindi, per quanto mi riguarda, ogni serie che non era tirata al sedimento non era da considerarsi appunto una serie allenante. Quindi, per quanto mi riguarda, poteva essere una forma di warm up, riscaldamento, ma la trattavo come tale. Quindi, se prendiamo un carico da 30 RM, io me ne facevo 10-12 al massimo, di conseguenza è chiaro che è warm up. Non puoi neanche definirlo buffer questo, perché c'è un margine troppo grande. Esatto. Non c'è una forma, diciamo, di deplezione dei fosfagi, quindi non si innesca alcun tipo di metabolismo. Quindi è un avvicinamento a quello che potrebbe essere il carico di regime. Esatto. Quindi la cosa migliore, io ritengo che sia quella di trovare il compromesso, la giusta strada, perché mi sono reso conto nel corso degli anni, anche a forza di applicare, non solo su di me ma anche sugli altri atleti, che l'intensità, quando protratta ai massimi livelli, chiamiamola massima espressione, che non è unicamente andare al sedimento e magari protrarlo oltre tutte le sue forme, quindi sediamo in concentrica, sediamo, non so, in isometrica, in ordine diverso, ma comunque prendere quello significato, forzate, poi intervengono chiaramente fenomeni come il cheating, che sono gli effetti, portano la tensione comunque a deviarsi, per quanto mi riguarda. Quindi io ho fatto un passo indietro, ho detto vediamo anche la biomeccanica dell'esecuzione, vediamo anche la capacità di rendere individuale un esercizio, quindi di essere capace di coinvolgere prettamente il principale agonista, sì, anche all'interno di un movimento pluriarticolare, perché qui sta il bello, saperlo appunto fare anche all'interno di un movimento dove la catena motoria è più grande, devi saperla quindi distribuire all'interno del movimento, devi saper creare una sorta, diciamo, di lavoro capace di convogliare, di dotare la tensione soltanto dove realmente serve. Quindi qua si va a guardare la distribuzione del tempo di tensione all'interno del ROM, per esempio, quindi si lavorerà su principi importanti come potrebbero essere quello di portare più tensione nella posizione eccentrica del muscolo, del principale agonista in questo caso, che è quella fondamentale per innescare processi di cui, se vuoi, dopo ne parliamo, che sono legati all'attivazione della cellula satellite per un discorso anche legato al taneggiamento proprio della fibra muscolare. Qui però entriamo nel nebuloso che ho aperto, infatti stavo studiando in questi giorni qua, esatto. Quindi qua si parla, diciamo, di studi di diversa natura che vengono fuori anche da argomentazioni non propriamente riferenti al bodybuilding, però messe insieme e coordinate in maniera più o meno sapiente si riesce a ottenere un qualche, diciamo, una riduzione diciamo, determinati esatto, si può capire qualcosa, però sono sempre ipotesi, quindi si lavora nell'ambito dell'empirismo. Dove sale il tornando sei. Al discorso che stavi facendo giustamente, Luca, io negli anni invece, poi dopo l'approfondiamo in entrambe le cose, oltre al discorso dell'intensità, che tu sai, ne ho basato tutta la mia carriera, lo scrittore di libri su questo, che ritengo estremamente importante, e l'intensità localizzata, quella che veniva considerata la mezza, quindi cedimento muscolare in una determinata zona, se facciamo un bicipite, un bicipite, la zona settori, un ragionamento culturistico, usiamo quindi l'infanzia, avanti la lingua. Io penso, almeno da quella che è stata la mia esperienza pratica, che l'impatto maggiore sulla crescita muscolare derivi più che dal cedimento locale, portato quindi un muscolo, cedimento muscolare, cercando di reclutare tutte le unità motorie nel momento in cui arriviamo all'ultima ripetizione allenante, quella del cedimento muscolare, sia in realtà più condizionato, quindi la crescita muscolare, da un cedimento sistemico, cioè la quantità di lavoro nel totale, e se qui possiamo anche parlare di catene muscolari, che riusciamo a portare avanti nell'unità di tempo, facendo cedere simultaneamente, diciamo tra virgolette, perché in realtà c'è sempre un muscolo che cede, e che è il muscolo della catena debole. Potremmo, se parliamo per esempio di un dorsale, normalmente cede prima il bicipite del dorsale, o se parliamo di un pettorale, il tricipite. E qui entra in gioco la peculiarità nel lavorare quello che in modo settoriale. Esatto, però ecco, in questo, quello che volevo, per terminare quello che stavo dicendo, è appunto che il cedimento di più aree simultaneamente in unità di tempo estremamente corta crea quello che alcuni tecnici veniva chiamato terremoto metabolico, che poi innesca tutte quelle reazioni che creano uno stato di anabolismo generalizzato. Quindi dal mio punto di vista, almeno dal mio punto di vista ad alta intensità, diciamo, il fatto di portare più aree muscolari a un cedimento veloce, simultaneo, in unità di tempo breve, che è riguardante questa unità di tempo, quando parlo di unità di tempo parlo dell'unità di tempo che serve per svolgere un intero workout su più gruppi muscolari. Supponiamo che io abbia oggi allenato petto, spalle e tricipiti, quindi non tanto una split, esatto, ma il lavoro intero su petto, spalle e tricipiti ridotto in unità di tempo estremamente corto, con cedimenti anche in esercizi multiarticolari che quindi portino a cedimenti più gruppi muscolari in unità di tempo estremamente ridotta, sia quello che contribuisce di più alla crescita muscolare, all'attivazione di tutti i processi di crescita muscolare. Questo è il mio punto di vista, mentre tu invece stavi... Ah, ecco, questo argomento qua è interessante perché si rilascerebbe a un concetto che avevo già espresso, tra l'altro, in un libro che avevo pubblicato ancora nel 2009, che forse era quello che avevi anche letto io, no? Esatto. Anche se lì c'erano comunque ancora degli abbozzi di idee non sviluppati, sì, magari anche con qualche errore didattico proprio. Ad ogni modo si parlava di cedimento su più distretti muscolari, però raggiunto contemporaneamente, quindi lavorando con dei circuiti di rotazione dove si lavorava con muscoli chiaramente che non si interferivano fra loro, non inficiavano quindi ognuno sulla prestazione dell'altro. Quindi non si può lavorare su sinergici, ma chiaramente lavoreremo magari su antagonisti, per esempio. Ecco, di quella strada si raggiungeva una condizione pressoché equivalente in termini di saturazione prestazionale nello stesso momento. Di quell'occasione avevamo che cosa? Avevamo appunto la unione del cedimento a quella sorta di ambiente metabolico più favorevole per poter innescare i processi in maniera equa. Tant'è che questa cosa qua l'ho ideata al tempo osservando gli atleti che iniziavano sempre con quella determinata area muscolare e finivano sempre con quella determinata area muscolare, dando priorità quindi alla prima e meno priorità alla seconda, ma non tanto dal punto di vista di impegno e di prestazione, quanto proprio dal punto di vista cronologico, okay, allenante. erano carenti negli ultimi muscoli allenati, come se il sistema avesse già erogato le proprie risorse e quindi non riuscisse più a innescare il processo di crescita. C'è anche un problema probabilmente legato al fatto che quando arrivi alle ultime unità allenanti sei più provato, dipende anche dal tipo di allenamento, un allenamento classico alto volume meno impattante su tutte le unità, proprio perché non arriviamo quasi mai al cedimento muscolare se non alla fine, e poi spesso non è neanche un vero cedimento muscolare, mentre un allenamento ad alta intensità già al secondo muscolo la capacità poi di generare la stessa intensità sull'ultimo muscolo diventa estremamente difficile. Specialmente se sei stato allenato con un esercizio multiarticolare dove prima è stato esaurito, classico dorso bicipiti, ecco, giusto per capirci. Esattamente, sono abbinamenti complicati quelli, se non sai individualizzare all'interno di un movimento di trazione qual è appunto per il dorso il lavoro del dorsale piuttosto che del flessore del gomito, è chiaro che abbiamo... E infatti avevo grossi problemi all'inizio nell'introdurre all'allenamento ad alta intensità, dove i movimenti multiarticolari, specialmente nei primi stadi dell'allenamento, sono i preponderanti nelle schede, e chiaramente se la persona è o parte da zero o è inesperta a livello di non tanto di anni di allenamento, perché quelli non credo siano la discriminante giusta, non credo che quando una persona mi diceva alleno da 30 anni sia una discriminante dell'esperienza della propria e della qualità dell'allenamento. Ho visto persone allenarsi da 30 anni e appunto sentire ancora i bicipiti in maniera preponderante sul dorso quando eseguono un esercizio di trazione. Scarsezza di qualità in questo caso. Assolutamente, è un allenamento non è ragionato, non ragionato, una connessione mente muscolo carente, una grossa carenza. Esatto, quindi qua si sta parlando di compiere un gesto piuttosto che creare uno stimolo. Esatto. È la differenza tra esercizio e ginnastica con i pesi, sostanzialmente. Esatto. Muovere un peso a prescindere da come venga mosso. Esatto. L'espressione che oggi come oggi viene definita più tecnicamente functional training, esatto, che impiega una catena motoria pressoché enorme per effettuare un gesto. Con tutti gli annessi e connessi che sono i danni che spesso vengono, perché basta andare a vedere una gara di CrossFit piuttosto che normalmente ci sono 7-8 professionisti, esatto, infortunati all'interno della gara. Esattamente, culturali sono bassi. È uscita la lista degli infortuni dell'ultimo mondiale di CrossFit, si dava un bollettino di guerra. Stiamo parlando di professionisti, quindi prendere prendere un dilettante e cercare di allenarlo con queste tecniche quando un professionista si spacca regolarmente è veramente utopico. Insomma. Esatto. Tornando a notare che vengono fatti in gruppo questi allenamenti di solito, quindi c'è anche il problema del controllare, quindi già è difficile provare che lavoriamo su una persona sola, abbiamo controllare un movimento più tempo. Il concetto di personal training. Esatto. Però senza divagare, quelli del CrossFit ci dicono che siamo dei detrattori di quello che documentino e documentare. Però era interessante quello che stava dicendo Luca sul suo metodo funzionale, che tra l'altro è un metodo che è dinamico, è cambiato nel tempo, deve essere tutto, deve essere il protocollo ibrido chiamato funzionale apposta, perché si muove in funzione di qualcosa, quindi in funzione di ciò che stiamo osservando, in funzione di ciò che stiamo anche creando con il nostro allenamento, e quindi si evolve essenzialmente, si evolve sul breve, sul lungo termine, perché poi cambia anche in virtù di quelle che sono le risposte, quindi è una sorta di cambiamento a feedback retroattivo fondamentalmente. Quindi io direi che gli elementi che concorrono alla creazione del workout siano pressoché analoghi fra l'alta intensità, i concetti macroscopici e quelli del metodo che ho coniato, che comunque l'ho coniato sulla base dell'esperienza, dell'osservazione, quindi ci si arriva nel corso degli anni. Certo. Io ho alle spalle 24 anni di allenamento, anche se non sembra, anche se sono definibile secco per molti utenti del web. Luca, credo che poi ti invidiano in tanti e ti seguono anche per questo. C'è questa moda di definire secco chiunque sia sotto i 80 kg, quindi credo che siamo orientiamo quasi tutti quanti questa carriera. Indipendentemente dalla percentuale di grasso, tra l'altro. Esatto, indipendentemente da quello, quindi è sempre meglio. Ci sono questi powerlifter che sono più pancia che altro. Che esatto. Aspettano il bel squat, grazie al rimbalzo dell'addome sulle ginocchia, esagerando chiaramente. Quindi se vogliamo andare a vedere questi dettagli, insomma, è chiaro che siamo molto compatibili. Quello che negli anni ho voluto andare appunto a modificare e per certi versi far rientrare, secondo il punto di vista, in una sfera più fisiologica, è quello di trovare il momentaneo sedimento in un preciso momento metabolico, e qua ci metto le virgolette fra momento metabolico, perché stiamo parlando di diverse penetrazioni del metabolismo anaerobico lattacido. In quanto siamo lattacidi, sicuramente dopo i 10 secondi di tensione continuativa, in quanto abbiamo esaurito la nostra riserva di ATP e ECP, quindi abbiamo già esaurito i fosfagili essenzialmente, entriamo in lattacido, ma ci sono diversi gradi di penetrazione. Ci sono livelli di penetrazione che ci portano a depletare completamente anche tutte quelle che sono le molecole di glicogeno, certo, muscolari, che comunque non possono essere rimpiazzate sul breve termine dalla partecipazione, anche dal rilascio dell'organo epatico nel flusso ematico. Quindi è evidente che il muscolo in quel momento lì potrebbe aver bisogno in maniera più repentina di energia, di conseguenza potrebbe andare a intaccare le strutture proteiche, per quindi in questo caso conversione. In questo caso naturalmente dipende dalla lunghezza dell'allenamento. Dalla lunghezza dell'allenamento, ma forse anche dall'intensità individuata sul breve tempo, però qui siamo chiaramente sempre nella sfera empirica. Io tutte queste osservazioni qua le ho fatte chiaramente in modo pratico, individuando quelli che sono, misurando anche se vogliamo, in maniera abbastanza grossolana, quindi parliamo di misurazioni effettuate con un metro da sarto, valutando quindi le circonferenze più facilmente magari degli arti che piuttosto del tronco, e individuando quindi i tempi di, tra virgolette, supercompensazione, però quella che si può osservare, quindi palpare per certi versi. Quindi osservare, che so, un bicipite, un braccio che dopo un allenamento di bicipiti guadagna 6, 8, 10 mm di distanza di 24 a 72 ore, è interessante perché ci dà comunque una direzione, ci fa capire che tipo di processo abbiamo innescato. Se invece dopo, non so, 36 ore individuo un calo rispetto alla condizione pre-allenamento, mi rendo conto che si è creato qualcosa sicuramente di non favorevole al processo anabolico. Perché dici questo? Questo per 24 ore, perché in realtà non ho mai osservato dall'applicazione di un'eccessiva intensità, però parliamo chiaramente di atleti a cui è stato insegnato un metodo selettivo di lavoro, quindi parliamo di atleti che sono in grado di creare un lavoro a tensione pressoché continua sull'area muscolare bersaglio, quindi che non hanno alcun momento di tregua, non danno un momento di tregua a questi muscoli qua, che a tutti gli effetti innescano un processo depletivo che non ha ritorno. E il ritorno in questo caso possiamo individuarlo su brevi recuperi, come anche brevissimi risposa, anche di un secondo, due secondi, che a tutti gli effetti a livello del recupero di creatin fosfato significano parecchio in termini di percentuale. E quindi per certi versi è come dire: faccio tre passi indietro e due avanti se comincio a lavorare con del cheating o con dei brevi risposa interposti alla serie. E questo avviene tantissime volte nel pluriarticolare, anche se non lo cerchiamo, perché di fatto le leve modificano chiaramente i tempi, diciamo, i termini di tensione applicati al muscolo agonista, al principale agonista. Quindi è evidente che se io faccio panca piana mi troverò con una minor tensione sul pettorale quando sono nel punto morto superiore, o comunque mi sto avvicinando adesso, certo, maggiore quando sarò nel punto morto inferiore. Questo vuol dire che avrò sicuramente, non mi sto facendo un principio di isotonia sull'intero ROM. Lavorando invece sulla ricerca dell'isotonia sull'intero ROM, mi sono reso conto che tutti quelli che sono i processi depletivi sono pressoché accelerati, se non appunto addirittura esponenzialmente parlando, potremmo anche dire. E questo concorre nell'andare a intaccare, oltre che chiaramente i fosfagini e quant'altro, anche tutte quelle che sono le riserve di glicogeno. E da qui abbiamo anche alterazioni individuabili su quelli che sono gli enzimi di natura per la risintesi del glicogeno, della risintesi del glicogeno, e anche per appunto per lo smantellamento dei tessuti muscolari. Facciamo un esempio però sui tempi, cioè questo quello del dubbio che avevo io, ecco perché ti ho chiesto questo, perché dopo 24 ore siamo ancora in fase infiammatoria, quindi anche il rigonfiamento muscolare, infatti, ecco, ci estendiamo comunque. L'edema chiaramente vorrebbe in qualche maniera influenzare forse la sintesi proteica, in quanto richiamerebbe acqua appunto a livello muscolare, quindi potrebbe essere la misura iniziata anche da questa infiammazione che si viene a creare, che è fisiologica, e dall'edema, giustamente. E quello che crea bias, se però riscontriamo una misura che a tutti gli effetti pare che vivendo dopo quanto? 24 ore? Nell'immediato, ma anche riscontrabile a 48, 72 ore, 84. Se va regredendo, probabilmente si sì, c'è. E se rimane appunto un passo indietro rispetto a quello di partenza. di sicuro. Qui c'è qualcosa che non però, è che dobbiamo, però nelle premesse dobbiamo capire che cosa intende per intensità di lavoro e cioè, che quante ripetizioni sono state fatte, quante serie allora, sul muscolo. Ecco, io sono solito parlare diciamo, di tempi di tensione e qui entriamo ancora più nello specifico perché andiamo a vedere quali sono i tempi di tensione individuabili in fase concentrica e in fase eccentrica, in quanto la fisiologia si dice, quella chiaramente che parla diciamo, della biochimica cellulare, quindi parliamo di metabolismi, ci dirà che una serie, o meglio una fase eccentrica in termini di dispendio di ATP è sicuramente inferiore rispetto alla fase concentrica, ragion per cui noi potremmo entrare in lattacido non dopo 10 secondi, che poi in realtà sono 7/8 di un'attività continuativa, ma il bodybuilder ci potrebbe entrare anche vicino ai 20 secondi. Perché? Perché c'è di mezzo una componente eccentrica che occuperà la metà, se non di più, di quello che è il tempo totale di tensione. Certo. Per questo motivo c'è questo ritardo. Certo. Ora, se noi amplifichiamo chiaramente la fase eccentrica, ritarderemo l'effetto, come dire, lo stress metabolico, okay? Perché depleteremo di meno fosfageni e andremo sicuramente a creare un maggior stress a livello meccanico. Certo. Questo contribuisce a promuovere determinati poi processi metabolici, risposte che sono quella alla base, a mio giudizio, della crescita diciamo, del bodybuilder, che vanno a individuarsi poi su quelli che sono i fattori di crescita, sia insulinosimili che anche... Tu dai quindi una grossa importanza alla depressione dei fosfageni di base per determinare i fattori nella determinazione dei fattori di crescita. Io più che al consumo energetico, ai substrati che vengono poi utilizzati nel metabolismo muscolare per la produzione di ATP o mantenere il movimento, per l'energia nel movimento, considero che, come dicevamo prima, l'unità di tempo in relazione all'intensità debba produrre dei danni tali a livello della microstruttura muscolare, sì, che induca poi una risposta di completamento degli stress meccanici, chiamiamolo stress meccanico, giustamente, esatto. Quindi, possono coincidere le due cose, quindi, assolutamente, o potrebbero anche essere non coincidere completamente, a trovare il tempo, il momento esatto in cui queste due cose esatto, esattamente. Beh, io credo comunque che il cedimento muscolare sia, questo ormai credo che sia accettato da quasi tutti, anche Piero e anche altri tecnici lo rimarcano spesso, che il cedimento muscolare diventa fondamentale proprio perché porta all'esaurimento dei fosfageni da una parte, ma soprattutto all'utilizzo del 100% dell'unità motoria del muscolo che stiamo utilizzando, e quindi generalmente un danno profondo della pancia muscolare, del muscolo che stiamo allenando. Quel danno profondo per me raggiunto in un'unità di tempo corta e più volte su differenti muscoli incide maggiormente sulla creazione di un ambiente anabolico generalizzato. Perché poi alla fine delle finite, se noi dovessimo, non l'ho mai provato, però credo che per logica si possa pensare così, se dovessimo prendere una persona e portarlo al cedimento solo sul bicipite, sempre sul bicipite per un mese, avrà dei risultati probabilmente su quel bicipite, tuttavia non ci sarà un ricondizionamento della massa muscolare generale, perché certo, per due motivi, uno perché abbiamo allenato il bicipite, lo stress l'abbiamo creato su quel bicipite semplicemente lì, e secondo perché a livello generale diciamo che portare a cedimento un gruppo muscolare come il bicipite, che probabilmente rivesterà il 15% di un bicipite, cioè delle aree muscolari che costituiscono l'intero nostro organismo, incide è molto di meno, 10%. Poi dipende dal braccio, no? Dipende dal braccio, chiaro, un braccio a 5%, però ecco, incide relativamente poco su quello che è la risposta poi ormonale derivante anche da invece cedimenti più importanti. Noi sappiamo, per esempio, abbiamo le prove che in persone che eseguono solo allenamenti di squat, che quindi prendono fino allenando portando uno squat al cedimento muscolare fino al 60%, 65% delle aree muscolari del nostro organismo, si verificano eventi che portano anche all'aumento dei distretti superiori. Una volta ci sono stati fatti molte per un ambiente endocrino più favorevole. Per un ambiente endocrino senza allenare braccia, spalle o e certo, ci sarà un limite naturalmente. Però c'è un limite, se no i powerlifter sarebbero grossi, certo, esattamente, in tutte le aree muscolari. Esatto. Tanto è vero questo che addirittura a livello di preparazione atletica, ai rugbisti la mattina a professionisti australiani facevano fare squat, 4 serie di squat da 6 ripetizioni per la portata vicino al cedimento muscolare per incrementare solo il livello di testosterone, per renderli più aggressivi per la competizione pomeridiana. Chiaro. Questo fa abbastanza, abbastanza specie. E aggiungo una cosa che, di cui stavi parlando prima sul discorso degli studi su, fatti su un muscolo solo, cedimento contro non cedimento. Ne è uscito uno forse 6 mesi fa, si parlava di una comparison tra un po' una comparazione tra il cedimento muscolare e il locale. Cioè allenamenti cedimento muscolare, allenamenti assolutamente con pluriserie, su il brachiale di un braccio solo. Vi dico, il brachiale di un braccio solo potrà essere un allenamento, potrà comparare in maniera corretta l'allenamento alto volume con l'allenamento alta intensità, no? È chiaro che non ha senso, ma con un muscolo solo e non contestualizzato su tutto il è una visione troppo riduzionistica, quello di cui parlavi prima, cioè l'effetto endocrino globale l'hanno presi con le pinze. Già la scienza dell'esercizio, letteratura è molto precaria, molti studi vengono anche quelli però alta intensità, non stiamo parlando di assolutamente. Lo studio scientifico sulla scienza dell'esercizio ha molte bias, moltissime, dal selezione del campione al metodo metodo è anche interpretativo da parte del soggetto, assolutamente, voglio vedere, si possono leggere in molte maniere spesso, perché per te Enrico una serie di alta intensità ha un significato che non è solo appunto in questo caso metabolico ma anche biomeccanico, riguardante l'assetto meccanico posturale, tante cose che un atleta che si è sempre allenato in una certa maniera non può interpretarle in qual misura, quindi non può avere la capacità di parlare di questo tipo di protocollo. Quindi qualunque sia il ricercatore che fa appunto, che promuove, che redda uno studio del genere, deve avere le basi conoscitive per poter parlare di questo argomento. Poi attenzione, deve anche magari allenarsi, perché la competizione da cui siamo stati a ottobre dell'anno scorso è uno studio, c'era un post di un ragazzo cecoslovacco. Era quella di che convention era? La International Conference on Strength Training, quindi sull'allenamento per la forza, qui si parlava di attività di forza, quindi sostanzialmente di sovraccarico contro resistenza, è applicata a vari ambiti, dalla ginnastica per i bambini, alla cura del diabete, del cancro, cura al miglioramento della prognosi del diabete, del cancro, prevenzione, sì. Insomma, e c'era uno studio in cui questo ragazzo aveva studiato gli effetti dello squat su una palla basculante, una pedana basculante sostanzialmente. E quando poi avevamo visto lo studio, era uno studio che era abbastanza inconcludente, non stava in piedi a livello metodologico, effettivamente gli avevano chiesto: ma scusa, ma hai mai fatto uno squat? E dice: no. No, è chiaro che se non hai fatto uno squat e inizia a fare la sua pedana basculante, io sinceramente avrei i miei sospetti. Non lo faceva lui, aveva preso un gruppo di persone e lui lo coordinava. Ma se tu non l'hai mai fatto, è molto difficile capire come lo stanno facendo gli altri, in che modo, la mega biomeccanica. L'ho capito dopo 10 anni di lavoro. Ci sono ancora punti ostici. Esatto, non sono sicuro di capire. Immaginiamo come vengono fatti questi tipi di studi, hai fatto bene. Questo è bene rimarcato, perché insomma poi non si appiglia di studi scientifici per conto cantare una cosa, bisogna anche guardare un attimino come leggersi lo studio, magari anche la meta-analisi degli studi, no? Che mettono in relazione, mettono in competizione alta intensità e alto volume. Vorrei vedere come hanno fatto alta intensità e come hanno fatto alto volume. Chiaro. Quindi non mi interessa quel tipo di risultato, mi interessa andare a vedere i dettagli, le specificità insomma di questo studio. Ed è per questo che in questa disciplina poi l'esperienza del professionista fa ancora la differenza in maniera incontrastata, non essendoci protocolli fissi come la cardiochirurgia piuttosto che altre discipline mediche. Esatto. Questo credo sia un valore aggiunto di tutto, no? Infatti, se siamo qui a parlare, specialmente voi due, ovviamente. La cosa ha un estremo valore, no? Credo che sia un... Sicuramente. Cioè, il maestro ha ancora un senso, ecco, questo che... Ma in tutte le arti pratiche dove ci deve essere uno studio su quello che muoviamo, prendiamo anche l'osteopatia piuttosto che la fisioterapia, cioè se ci limitiamo allo studio teorico, senza mai poi andare a manipolare una persona, non avremo mai l'idea di quello che si può fare e dell'individualità, cioè delle differenze e la soggettività che varia, che c'è tra persona e persona. La stessa cosa succede nell'allenamento ma anche nell'alimentazione, tra l'altro. Possiamo estendere questo concetto qua a tutto l'artigianato, se vuoi. Esatto, perché se no sulla teoria non si va molto avanti. L'abilità invece del maestro di quella data materia è chiaro che diventerà anche capace di spiegarti i fatti, non tanto con la teoria quanto con le concretezze pratiche. Il valore aggiunto sono gli N casi, cioè quando io ho visto 1000 persone, ho visto 6000 persone in 15 anni, in 20 anni, a quel punto ho una base su cui poter lavorare statistica che mi permette di di in poco tempo definire quello che potrebbe essere il protocollo di allenamento o gli errori che sta facendo, il modo anche per andare a correggere gli errori di quel determinato cliente, proprio perché hanno visti 6.000. È chiaro che se la mia base di riferimento sono 10 persone o me stesso, si limita tantissimo la possibilità di correzione dell'altra persona, o di spiegare determinate cose o riadattarle alla specificità della persona, proprio perché non avendo avuto esperienze non ho neanche l'immaginazione o i dati per poter intervenire in tempo reale su quello che sta succedendo. Perché le regole diventano tali quando ci sono grossi numeri che le supportano, esatto, in qualche modo, quindi non possiamo e dire io ho fatto questo, mi è successo questo. È assolutamente su un organismo biologico inconcludente, essere inconcludente, chiaro. Così come tantissimi sostengono comunque, sai, che le risposte a breve termine non siano predittive per quelle che sono poi a lungo termine. Io però ecco, su questo appunto qui avrei da ridire, perché a mio giudizio, e qua si parla recentemente, proprio se ne parla molto sul web, che ad esempio la TC-retio, per dirti, testosterone e cortisolo, sì, quindi il rapporto che vige sia durante che magari nel breve, nel medio, nel lungo termine, non sia predittiva per quella che potrebbe essere la crescita muscolare. Io qua avrei da ridere, perché secondo me in ogni caso l'esito dell'allenamento, che si individuerà sempre comunque dopo un lungo periodo, se vogliamo, di applicazione di quel dato allenamento, si basa su eventi che per sommatorie di piccoli eventi può determinare un dato risultato. È per quello che io sono molto, come dire, fiducioso nel guardare le piccole sfumature anche nel mentre, per ottenere poi qualcosa di più. Il problema è individuare quali delle piccole sfumature hanno il peso maggiore, perché stiamo ancora lavorando. Esatto. In un organismo sono talmente tante le variabili, esatto, non conosciamo solo qualcuno, abbiamo parlato di testosterone, cortisolo, certo, ma poi ci sono fattori di crescita, tutta una serie di altre cose. Sono talmente tante le variabili che entrano in gioco all'interno della crescita muscolare o del dimagrimento, se parliamo di dieta, cioè che è difficile individuare quelle che sono le variabili cardine, quelle che sono fondamentali, diciamo gli hub. Possiamo individuarle in modo macroscopico, ma le certezze che quelle reali, impattabili, sono poche. Nel tuo caso, facciamo un esempio, visto che abbiamo parlato di testosterone e cortisolo, sono due ormoni che concorrono in maniera antitetica, tra l'altro, e che prendi come riferimento per la qualità dell'allenamento, cioè per definire se si è innescato un processo anabolico oppure catabolico. Okay. Ed è interessante capire che, fra l'altro, anche gli ormoni precursori a questi due elementi, certo, sono perfetti, processo, diciamo, sono fondamentalmente comuni. Sono gli stessi. Mi pare che sia il pregnenolone nell'uomo, esatto, e il progesterone nella donna. Ecco, che dopo si dividono e prendono una strada o l'altra. Esatto. Quindi è chiaro che se abbiamo l'atleta che sa supporto esogeno, non gliene frega niente se la sua produttività endogena va in una direzione o nell'altra, perché tanto sa il supporto esogeno. Nel caso del netolo le cose cambiano radicalmente, perché queste decidono, sanciscono proprio l'esito dell'allenamento. Quindi una delle variabili che incide direttamente sulla produzione di cortisolo, sappiamo che è il tempo sotto tensione, il tempo totale di allenamento. Più lungo il tempo, più i livelli di cortisolo tendono a salire. E viceversa, quelli di testosterone si abbassano in maniera direttamente proporzionale. Chiaro, se il pregnenolone viene utilizzato per la conversione in cortisolo, ovviamente non ci mette il testosterone. Ed è anche vero anche che un piccolo cortisolo è anche utile per poi innescare tutti i processi di riparazione, quindi l'innalzamento del cortisolo transitorio. Consideriamo che l'attivazione, ad esempio, non so, della cellula satellite avviene per effetto della prostaglandine, certo, e della PGF2, della prostaglandin growth factor 2, se non erro, che attiva cellula la sintesi proteica. Questo avviene a effetto, diciamo, tardivo rispetto al danno, all'evento traumatico, in quanto il muscolo si rende conto che c'è un ritardo sulla sintesi proteica, quindi attiva la prostaglandina, la PGF2, che dà luogo, da una parte, anche ai DOMS, perché è responsabile per queste diverse però d'altro canto questo fa appunto dà un'accelerazione alla sintesi proteica, che da qualche parte sfocerà una supercompensazione. Ora, questo avviene se ci sono chiaramente tutti se l'ambiente metabolico è favorevole a questo processo oppure no. Se lo è, vuol dire che le cose sono state giocate correttamente, ma ad esempio anche un cortisolo alto in questa fase potrebbe essere più motivante ad attivare magari una miostatina piuttosto che una PGF2, che sono appunto contrastanti. Quindi la sintesi proteica viene bloccata e la fisiologia, diciamo, della cellula. Il problema però del cortisolo, di prendere ad esempio il cortisolo all'interno del discorso dell'allenamento, è che è un ormone che viene secreto in tutti i fattori, ed è legato a tutti i fattori stressori, indipendentemente dalla causa. Sì, lì individuare quelli che sono extra allenamento non è forse è in parte compito nostro, anche se non è facile fare un quadro clinico. Questo è uno dei problemi del discorso di affidarsi al cortisolo. Noi ci affidavamo anche su alcuni casi, per esempio, in termini predittivi su quello che poteva essere un sovrallenamento o meno sulle pulsazioni cardiache e la pressione la mattina in posizione ortostatica appena sveglio, in modo da andare a valutare su un periodo di riposo quella che era una media della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca sveglio, appena sveglio ancora in posizione ortostatica, quindi disteso sul letto, per prenderlo per una settimana e fare una media e poi introdurre un nuovo allenamento e verificare nel giro di 2-3 settimane se c'erano variazioni in peggio, quindi salivano le pulsazioni, la pressione, oppure rimanevano sostanzialmente uguali. Questo quindi recupero inconcluso, tardivo. Naturalmente anche in questo caso fattori esterni come per esempio incazzature sul lavoro o sentimentali, l'evento, perché c'è anche il corso psichico, perché l'evento insieme è personalizzato quando viviamo un evento, no? Assolutamente. Questo è avendo una GoPro su ogni cliente che non avendo una GoPro nella testa, perché è la cosa forse più complicata. In queste case qua credo cambiamo un po' oltre la nostra. Chiaro. c'è anche il contesto, perché poi si parla sempre dell'atleta che può sostenere un volume di allenamento più alto, ma può anche dire che fa anche quello di mestiere, e quindi la casistica generale non è quella. È il cliente medio che lavora, che ha una famiglia, che ha una serie di problemi, mille cazzate, Equitalia, insomma, e quindi non è... Basta vedere dove spinge Equitalia, dove porta le persone. Esatto. Se spinge, diciamo, sui sistemi. Visto che siamo anche nella zona ancora tessuto industriale abbastanza importante, quindi siamo qui a Udine oggi, ecco, non l'abbiamo detto, siamo nello studio di Luca Zilli. Ma poi facciamo un'introduzione. Facciamo dopo. Okay. Facciamo anche una foto così, testimoniamo. No, però sarebbe interessante per un po' concludere, tirare le somme di quello che ci siamo detti. Riassumere in termini di frequenza e di volume un po' l'allenamento che stai portando avanti con i tuoi clienti, tanto per dare un'idea al pubblico di Fitness Discovery di cosa stai facendo. Allora, fatta premessa che non tutte le frequenze e i volumi portano a un buon risultato per tutti i clienti, ma qui chiaramente mi ha scoperto, penso, l'acqua calda. Ogni persona tollera più o meno parametri equivalenti, perché di fatto sono tutti quanti soggetti differenti fondamentalmente. Quello che io ho sempre sostenuto è che la differenza tra i vari soggetti sia individuabile anche proprio nell'interpretazione del workout, in quanto questa meticolosità che noi trainer andiamo cercando, magari non sempre viene ricreata secondo il nostro ideale, secondo il nostro immaginario ideale. Quindi può essere che per alcuni soggetti ci siano effettivamente dei livelli di intensità applicati inferiori rispetto a quelli che noi pensiamo di applicare. Questo avviene specialmente quando assegniamo un programma d'allenamento, non lo insegniamo e lasciamo che il soggetto segua pedissequamente quindi le nostre indicazioni, però senza metterci alcuna parte propria, quindi senza collegare, se vogliamo, la capacità proprioceptiva, insomma, dell'allenamento che ci riesce a restituire a quelli che sono poi gli stimoli ricercati. Quindi è evidente che se noi siamo presenti, riusciamo a intervenire, riusciamo ad assegnare un percorso e a far sì che questo si concretizzi e diventi quindi reale secondo la nostra esperienza, secondo comunque quello che le aspettative dell'allenamento stesso. Quindi io posso dire questo, che a grandi linee ho visto che un allenamento di una certa intensità superiore forse a quella mediamente impiegata può essere tranquillamente ripetuto con una frequenza anche settimanale, quindi si entra nell'ottica della monofrequenza, però qua parliamo chiaramente di qualcosa di strettamente individuale, anche legato proprio al tipo di allenamento, dove c'è una componente di stress che si va a individuare anche a livello neuromuscolare, non soltanto metabolico o meccanica, quindi si va a vedere un po' tutto quello che è il background dell'allenamento. Quindi per me un allenamento vuol dire andare a vedere tutti i parametri che sono celati in esso, e qua si parla di qualcosa come 8, 9, 10 parametri differenti che vanno tutti quanti a incidere su determinate risposte, poi delle risposte biologiche sull'individuo. Se parliamo di intensità più moderate, anche se comunque non sono le intensità che immaginiamo noi essere quelle blande tipiche da sala fitness, no? Parliamo comunque di intensità importanti su alcuni, da alcuni punti di vista, magari un po' più moderate dal punto di vista metabolico, vedo che c'è un recupero, una sovracompensazione anticipata che mi fa cadere l'ipotesi fra i 4-5 giorni, quindi tornare sullo stesso apparato muscolare ogni 4-5 giorni in virtù di queste porzioni potrebbe essere la scelta migliore. Resta da capire quale potrebbe essere fra l'ipotesi dell'infrequenza, quindi uno stimolo magari maggiore e che richiede chiaramente in modo fisiologico un recupero anche maggiore, se sia preferibile rispetto a uno stimolo meno intenso e un po' più frequente, se all'interno del macrociclo annuale questo può dare più o meno risultati. Arrivare a questo credo che sia un qualcosa che richiederà ancora qualche anno di sperimentazione. Noi, non so se ti ricordi nel libro che hai l'intensità applicata alla scienza dell'esercizio, io all'interno del libro, quando parlo di intensità, volume, frequenza e sovraccarico progressivo e poi li coniugo nell'alta intensità, poi che creo anche l'eccezione, dico normalmente la regola è questa, quindi più alta l'intensità, volume, frequenza seguono in maniera indirettamente proporzionale, quindi dovrò diminuire la quantità di esercizi e dilatare la frequenza in modo che la persona recuperi. Tuttavia un'intensità prolungata per molto tempo porta a uno svuotamento fisico, neurologico, la capacità esatto di risorsa, anche la capacità stessa mentale di generare costantemente quell'intensità. Quindi si prevedono anche dei periodi di riposo, magari di 3 settimane, un mese, ma anche in alcuni momenti in cui, per esempio, si può entrare in momenti di stallo, introdurre un maggior volume. Secondo, maggior volume nell'alta intensità, come lo intendiamo noi, vuol dire raddoppiare o triplicare le serie, cioè passare da 4 sedie su un muscolo grosso come un pettorale o un dorsale a 8-10 sedie, che è quello che ormai che fanno normalmente. Raddoppiare quindi o triplicare le serie, diminuire l'intensità per forza di cose e agire anche spesso sulla frequenza, quindi fare più allenamenti durante la settimana. In questi casi generalmente si possono portare ad allenare lo stesso muscolo ogni 3-4 giorni effettivamente, rispetto ai 12 che si utilizzano nelle tecniche classiche di UTI. In questo caso generalmente noi cosa riscontriamo? Una riattivazione di tutti i sistemi, cioè questo shock metabolico, passare da un'alta intensità classica a un maggior volume di allenamento diminuendo il carico l'intensità di lavoro e quindi anche i danni muscolari che ne derivano, allungando il tempo di lavoro e accorciando la frequenza dal momento in cui ho fatto un muscolo a quando ritornerò a fare lo stesso gruppo muscolare, per un periodo produce dei risultati, c'è un miglioramento della forza, c'è un miglioramento del volume, eccetera. È un periodo che va tra le 4 e le 6 settimane normalmente. Dopodiché incominciamo a entrare in una condizione di plateau, di stallo, e poi i risultati incominciano a declinare. Nel momento in cui entriamo nello stallo, generalmente ritorniamo a riapplicare l'alta intensità. Quindi, come dicevi giustamente tu, Luca, anche noi già prevediamo come regola l'intensità, ma come eccezione alla regola, la possibilità di introdurre dei periodi più o meno lunghi, 4-6 settimane ad alto volume, per creare uno stress metabolico diverso, un ricondizionamento diverso, un riposo anche mentale, perché come dicevamo prima l'intensità prevede un lavoro mentale e nervoso notevole, esatto, per poi ritornare a fare quello che facciamo normalmente. Quindi siamo già su questa linea. Ecco, la dinamicità di questi programmi in effetti denota la necessità da un lato di periodizzare gli stimoli, che comunque penso che sia consolidato su qualunque frangente sportivo, la periodizzazione è fondamentale, perché uno stimolo porterà sempre a saturare determinate risorse, di conseguenza prima o poi porta allo stallo. D'altro canto è interessante capire che non si può attribuire un valore assoluto a una determinata tecnica pensando che questa possa essere, per quanto efficace, in ogni caso sempre valevole. Quello che osservavi tu sui 5 giorni di recupero nei lavori mediamente sì, 5-6 giorni tra 4 e 6, una forma di meno è questa. Sì. Lo osserviamo anche noi a volte con l'allenamento in zone training, che è una tecnica zone training di Brian Johnston, che ha tutti gli effetti meno impattante a vari livelli, specialmente sul livello neuromuscolare, sullo stress neuromuscolare, potremmo dire, esatto, durante l'allenamento. E inoltre credo anche, adesso questo lo dico per via, in via di ricarica, che faccia anche, crea anche meno danni a livello di lacerazioni, sì. Nel senso che se l'obiettivo è il pompaggio nello zone training rispetto alle minuti, che dove l'obiettivo è raggiungere il 100% del reclutamento dell'unità motoria, quindi cedimento muscolare, e credo che il danno minore sia si recupera prima, e quindi è possibile affrontare diciamo comprimere un po' le frequenze dell'allenamento. Sulle heavy duty questo non è, chiaramente avendo obiettivi diversi la faccenda è più si prolunga un po' di più, ma specialmente questi due parametri, danno minore e si stress neuromuscolare ridotto, consentono questa progressione con maggior frequenza, sì. In quanto, ribadiamolo, il sistema nervoso, il CNS, in questo caso il sistema nervoso centrale, e tutte quelle che sono le reti neurosinaptiche, se vogliamo, a livello muscolare, hanno un recupero che è un po' più, come dire, lento rispetto a quello sia meccanico che metabolico. Soprattutto quando usiamo le negative, e diventano estremamente stressanti. Perché i segnali aumentano, l'impulso aumenta, cioè, chiaro. Se arriviamo addirittura a allenamenti super slow, che noi non utilizziamo, alcuni le mettono nell'alta intensità, ma io non sarei di quel parere, e qui il recupero a livello nervoso diventa preponderante rispetto a quello muscolare, lì assistiamo a recuperi molto lunghi. E anche la sensazione in termini muscolari dopo una serie in super slow è effettivamente diversa rispetto a una serie di minuti, per esempio, che comunque ha una cadenza lenta, perché tutti gli effetti, la cadenza è molto lenta, ma la sensazione di pienezza muscolare, anche di appagamento, questo ci raggiunge con un po' di pratica, di appagamento dopo la serie, cioè di aver percepito un lavoro duro e profondo nei muscoli, è meno della metà sicuramente rispetto a quello che è un allenamento in una serie di minuti, a parità di intensità sostanzialmente, quindi raggiunto il cedimento muscolare in entrambi. No, avete proprio tornando allo zone training, appunto i 4-6 giorni hanno anche un senso in termini di metabolici, nel senso che si privilegia l'incremento della concentrazione di lattato nel muscolo, e lattato è il nostro segnale di crescita sostanzialmente, oltre allo stress connettivale che allo stretch del pompaggio che esiste, ma il messaggero principale della crescita è proprio il lattato, cioè lo stimolo del fattore IF, che è il fattore di ischemia sostanzialmente, che poi stimola tutta la sintesi proteica successiva a valle, quindi lo stimolo ipertrofico puro, potremmo dire, più che iperplasico di ricostruzione delle cellule satellite, perché l'iperplasia in letteratura è descritta come un processo molto più lungo, di almeno 7-10 giorni fino a 14. La famosa che vede appunto la distinzione tra iperplasia e invece divisione della cellula satellite, che dovrebbe essere più che altro considerata come miogenesi. Se ne parlava di recente anche sui vari blog. Quindi iperplasia è un qualcosa di sofisticato che non è ancora spiegata. C'è chi anche ancora la nega addirittura, nella medicina anche ufficiale. Ma non è ancora chiaro, infatti, se sia, c'è chi è di parte e chi non lo è. Sarebbe difficile spiegare sviluppi di un braccio, anche parlando di doping. Soltanto per 30 cm, 60 cm, perché è un meccanismo che il corpo comunque tende a non prevedere, siamo in casi limite. Se ci pensiamo bene, lo spessimento di una fibra oltre un certo limite crea difficile la diffusione di ossigeno, quindi non è un meccanismo esattamente è un meccanismo di salvezza, rescue. Esatto, difatti sono cellule di riserva di crescita fondamentalmente. Quindi l'ispessimento di un braccio che passa da 25 a 60 cm, per quanto se fosse solo per ipertrofia, impossibile. È complicato anche la diffusione dei gas, quindi la cellula non sta bene. E infatti, cosa succede quando ci si mette di allenarsi? La prima cosa che succede è l'ipertrofia viene eliminata. Credo anche per un meccanismo forse di evolutivo, anche da questo punto di vista, perché non è efficiente a sé molto. Pensiamo alla ipertrofia cardiaca: l'ipertrofia cardiaca è qualcosa che non è assolutamente efficiente come sistema. Infatti le cardiomiopatie, le ipertrofie maligne cardiache sono molto pericolose. Esattamente. Infatti si parla di mantenimento delle cellule satellite fondamentalmente, che ci permettono di creare quella famosa memoria muscolare che poi ci riporta i volumi precedenti, la sospensione in breve tempo. Esatto. L'ipertrofia è un qualcosa, diciamo, di molto transitorio. Esattamente, molto transitorio, che ha un suo valore perché poi dà volume in generale, certo, però ha un senso quello che non veloce è un processo epigenetico. Esatto. In un commento Facebook che ho letto di recente sulla pagina Facebook di Enrico, che ha fatto Luca, è un commento che mi ha interessato molto perché io non avevo mai sentito parlare, ha negli anni messo insieme delle bioequazioni e qui chiedo a Luca direttamente di spiegarci la logica di queste equazioni che ha creato per ottimizzare ulteriormente l'allenamento. Ecco, la bioequazione essenzialmente l'ho creata, siamo sempre nel frangente empirico, attenzione, per cui si parla comunque di parametri estrapolati in maniera sicuramente meticolosa dall'allenamento, ma che riconducono a dei valori che non hanno alcun tipo di riferimento, non hanno un'unità di misura vera e propria, e riconducono a dei valori, diciamo, numerici, che dopo uno può mettere in confronto, può valutare la proporzione tra i vari risultati ottenuti dall'equazione e quindi farsi un'idea circa quello che è l'effetto matematico o biomatematico dell'allenamento. Ora, io sono partito dalla convinzione che una parte dei parametri pervenuti dall'allenamento, poi ce n'è chiaramente una in comune per tutte le equazioni, ma alcune parti di questi parametri concorrono nell'andare a formulare determinati valori che possiamo distinguere macroscopicamente in stress metabolico, stress meccanico, stress nervoso, poi tralasciando chiaramente quelli che sono i valori più semplici da andare appunto a misurare, quali potrebbero essere i tempi di tensione totali della serie o delle serie in questo caso, quale potrebbe essere anche la densità dell'allenamento, cioè il lavoro, diciamo, sul tempo totale, quindi quello che si mette in confronto con anche annessi tempi di recupero. Tutto un insieme di dati che intrecciati insieme ci danno un'immagine numerica dell'allenamento. Ora, io nel corso degli anni ho formulato qualcosa di interessante, qualcosa chiaramente che non limiti l'applicazione delle varie tecniche esistenti, ma piuttosto ne faciliti il confronto. Ho provato a confrontare, numericamente parlando, tutti quelli che sono gli allenamenti che hanno condotto a un qualche risultato, e questo l'ho potuto, diciamo, valutare fisicamente, quindi praticamente con tutti quelli che sono gli allievi che ho allenato negli ultimi 10 anni, parecchi dati, insomma, ho dovuto estrarre. Attenzione, parliamo di dati che vengono estrapolati in sede d'allenamento, parliamo di dati che vengono estrapolati da ogni singola serie, quindi una miriade di dati che riempiono, penso, un'enciclopedia, se vogliamo, e quindi messi insieme mi ha portato a pensare che ci sia una determinata reazione sulla base di questi rapporti numerici che pervengono appunto dall'equazione. Ecco, nel corso degli anni è stato interessante capire che neanche a farlo apposta, forse un caso, forse chi lo sa, non lo sapremo, potremo vederlo negli anni ancora venire, insomma, penso che tutti gli allenamenti che hanno condotto una qualche forma di risultato tangibile evidenziavano stessi rapporti numerici fra le varie grandezze di stress. Questa è una cosa che secondo me non è definibile casuale, è un qualcosa che effettivamente ci deve far pensare, quindi ci può tornare a far pensare che ci debba essere un rapporto esatto fra quelli che sono gli stimoli anabolici, quelli che sono gli stimoli catabolici, devono essere classificati, quindi introdotti all'interno dell'equazione, devono essere codificati in primis, perché devono, tutti quanti sono in qualche modo figli di qualche specifico parametro subordinato all'allenamento, e quindi tutti questi ci portano a pensare quale possa essere l'allenamento migliore prima ancora di metterlo in pratica. Avendo un'equazione abbiamo già in qualche maniera il giusto assemblamento dei parametri per poter ottenere uno stimolo anabolico oppure no. Questo è il significato dell'equazione essenzialmente. Molto complessa, devo dire che è un processo matematico piuttosto sofisticato, lavora su una base di 7 espressioni differenti che soltanto un foglio elettronico può gestirle simultaneamente, quindi soltanto un foglio elettronico come Excel può farci avere appunto il risultato in tempo reale e capire bene quali rapporti pervengono dal nostro allenamento. Nell'ultimo periodo mi dicevi che l'avevi applicata alle di duty o alle tech, ai tempi delle... Cosa era venuto fuori? Allora, fatta premessa che io le vedute l'ho codificato con una percentuale di intensità di carico ben determinata, in quanto determinati tempi di tensione ammettono un po' di meno di quella cifra lì. 65? 65, come dicevo, perché per raggiungere 70, 80, 90 secondi di tensione continuativa... Ti dipende se tra le 6 e 10 ripetizioni, chiaramente. Sì. Altrimenti più avanzati, nelle tecniche vedute, si cerca di portarli al cedimento tra la 6ª e la 7ª ripetizione, perché lo scarto metabolico derivante dal metabolismo muscolare in allenamento, sì, tende a essere tanto e tale che porta anche a un debito d'ossigeno più veloce, quindi si scende dalle 10 ripetizioni, si arriva tra le sì, sedie, chiaro, okay. sì, per sì. cui è chiaro, un ambiente ischemico va producendo esatto. un tempo di tensione del genere sicuramente. Un braccio da 50 cm è molto diverso da un braccio da 30 cm, lo scarto metabolico è molto diverso e si tende a lavorare su tempi più bassi. Sì. C'è un time under tension di 60-70 secondi invece dei 90. Giustamente, perché qua parliamo anche, possiamo anche ricollegarci eventualmente a quello che potrebbe essere la capacità di generare lavoro dentro un dato numero di serie e quella che invece è l'incapacità, chiamiamola così, del soggetto neofita o comunque mediamente avanzato, che deve andare a creare una compensazione sempre equazionistica sul volume piuttosto che sull'intensità anche applicata, perché non è proprio facile parlare di cedimento soltanto quando si parla di intensità, si parla di una serie di elementi che devono in qualche modo essere sinergici, concatenati. Quindi un atleta si presume che più avanzato è, più qualitativo sarà nell'allenamento e quindi più potrebbe ridurre il volume stesso del lavoro. Ipoteticamente. Non è dopo lo sei capace di fare, ecco, però, esatto, non è detto. Partiamo da questo presupposto. Quindi un approccio più professionistico sicuramente è la capacità di generare un dato stimolo, ok, un dato evento stressogeno, quindi in questo caso una stessa grandezza di stimolo nel minor tempo possibile. Questo qua è sicuramente un concetto che secondo me deve essere scritto sulla pietra, perché vedere un soggetto professionista che si definisce tale che ha bisogno ancora di allenarsi 4 ore al giorno vuol dire che non è capace di creare degli stimoli efficaci, non che sia più bravo. Sono d'accordissimo, esatto. Immaginavo che su questo argomento qua fosse più bravo. Detto questo invece, con le bioequazioni, che volevo tornare su quel punto lì, nell'analisi delle riduti, quindi del tempo sotto tensione che può andare tra i 60 secondi e i 100 secondi, i 90 secondi, dai 60 ai 90, con un 65% sì, esatto. di massimale, cosa è venuto fuori interessante? Allora, è venuto fuori che dal momento che io ho attribuito a ciascuna formula determinati fattori che provengono dall'allenamento, quindi qua parliamo di enfasi meccanica, enfasi metabolica, dove l'enfasi metabolica interferisce relativamente su quella meccanica, perché è governata da altri parametri, ho notato che l'enfasi metabolica è dominante in modo netto su quella meccanica. Qui si può chiaramente ricollegare anche a un controeffetto che è subordinato all'enfasi metabolica stessa. Quello che ho notato è che è molto molto basso lo stress neuromuscolare, per motivi legati anche alla presenza di un carico dall'intensità non propriamente elevata, in quanto un 65% del carico lo si sa rendere allenante se si è professionisti, questa è la grande differenza. Certo. Un soggetto medio cerca l'intensità o cerca comunque il sedimento in prossimità a carichi ben più elevati, perché ricrea, cerca un riscontro in termini proprio di saturazione della capacità prestazionale, sicuramente farà le 6, le 9 ripetizioni, non va oltre, sino che arriva a 8 alcune volte. E con una cadenza bene o male naturale, quindi abbastanza veloce, che generalmente misuro e quoto intorno a un secondo e mezzo in fase concentrica, 2 secondi esagerando in quella eccentrica, sì e no che sia alcune volte in quella eccentrica, quindi parliamo comunque di una serie da 6 ripetizioni che dura qualcosa come 20 secondi nella media del frequentatore medio. Una serie di ripetizioni fatte in modalità heavy duty non dura 20 secondi, ma ne dura più o meno 3-4 volte tanto ne dura, quindi è qualcosa di completamente diverso. La pressione, la tensione che arriva a livello muscolare per centimetro quadrato di sezione trasversa è nettamente maggiore, con una cadenza molto più controllata e con la capacità subordinata che ci deve essere di portare la tensione comunque dove realmente serve, non a livello tendineo, non a livello articolare e non su più apparati contemporaneamente, anche se il movimento magari è multiarticolare. Questo è un dato importante che va messo in relazione con altri programmi che ho visto essere più o meno produttivi in ambiente natural. Chiaramente parliamo sempre di atleti natural, possibilmente neanche talentuosi, particolarmente talentuosi, in quanto il soggetto medio non presenta particolari doti. Per questo è molto utile, esatto, già parlare. Esatto. Forse è più interessante rispetto all'atleta di punta. Che esatto, l'atleta di punta è un fatto a sé. Per definizione ha una genetica spicca per la genetica. Però è interessante che anche Luca, con le sue equazioni, con gli studi che ha fatto, un'attenta ricerca di quelli che erano i fattori che potevano incidere sulla crescita muscolare, oggi ci confermi qualcosa che noi abbiamo visto in questi anni, in tutti questi anni come pratica, anche noi chiaramente, sui nostri clienti, che portandoli a cedimento muscolare con determinate velocità, curando il movimento come dovrebbe essere curato, eccetera, cercando di creare una connessione mentre muscolo, che è fondamentale, come altri amici ci ripetono sempre, questo tipo di approccio nel natural è un approccio. Sì, conduce, è interessante perché conduce, al di là di quelli che sono i rapporti, conduce agli stessi valori, equazioni di fissi e tensioni. Che tu raggiungevi con le tue tecniche. Bravissimo, esatto. Per cui è chiaro che se io comincio ad avere dei parametri all'interno dell'equazione che da un lato vanno a togliere, come dire, dal risultato, in quanto solo si possono mostrare detrattori, insomma, del risultato crescente. D'altro lato abbiamo altri parametri che vanno in qualche modo ad aumentarlo. È evidente che se andiamo a vedere il metodo equazionistico, un allenamento in stile alto volume che dà spazio comunque a parecchio cheating, dà spazio anche a un assetto meccanico posturale non propriamente idoneo, non sempre idoneo, basti pensare ai famosi curl anche di Schwarzenegger, fatti prevalentemente con oscillazione del tronco, per cui abbiamo comunque un dirottamento delle forze che non è propriamente settoriale. Questo concorre chiaramente all'attenuare. Quindi intervengono più articolazioni dal punto di vista, diciamo, dinamico all'interno del gesto che attenuano fondamentalmente quello che è il valore resistente. Quindi se io ho 250 kg di panca e per sollevarli alzo un piede, alzo il sedere, rimbalzo sul petto, quindi il riflesso miotatico che diventa favorevole per la pliometria, tutto un insieme di cose, è chiaro che in quella maniera lì non posso fare altro che attenuare l'effetto allenante sul muscolo pettorale. Certo. C'è chi dirà che non se ne frega niente del muscolo, bisogna ragionare sul gesto. Esatto. E quindi ci si imposta in maniera tale da aumentare la prestazione. Ma quelli sono altri frangenti, l'altro sport. Esattamente. E ci sta per quello che è l'altro sport. Certo. Che dopo abbia ipertrofia anche quello sport, sicuramente è vero, ma qua siamo a confermare. È un effetto collaterale, sì. È un effetto anche equazionistico. È come noi avevi chiesto nel bodybuilding. Hanno più allenamenti, più serie e più carico. Noi siamo qua fondamentalmente per cercare di trovare il modo migliore di allenare le persone e raggiungere il massimo potenziale genetico del cliente o il nostro potenziale genetico nel minor tempo possibile. Questo è il punto. Perché se ci arrivo in 6 anni a fare quello che potrei fare in 2, è una perdita di tempo, tutto sommato. E questo è e giustamente Luca, senza contare gli attacchi, quello è un'altra cosa ancora, chiaramente, sì, giustamente, perché il volume di allenamento, il gesto ripetuto nel tempo, la frequenza ridotta perché ti alleni molte volte alla settimana, poi porta chiaramente a un'usura delle strutture, e noi lo sappiamo bene che in tutte le attività di tipo aerobico prolungato come la maratona l'usura delle strutture è devastante, mentre invece in tutte le attività dove un gesto è molto intenso in un breve lasso di tempo ma con frequenze dilatate, cioè molti giorni che passano, tendenzialmente le strutture ossee vengono conservate, tendine ossee. Per cui ecco, c'è anche questo aspetto in più, oltre a quello della crescita muscolare di per sé, che è quello che in questo momento stavamo discutendo.